avanti. 8. Aspetta che sto cercando di alzare il volume. Fai avanti alla questa. Piacere. Ciao, sono il padre di Riccardo. Come mi ascolti? Così via. Finalmente il padre di Riccardo. Sempre Riccardo, Riccardo, uff. E mio padre qua, mio padre là, mio padre grande, mio padre qui, mio padre lì. Finalmente vediamo suo papà. Piacere, fai avanti alla questa. Forte e chiaro come azzurro. Grazie. E gli stavo provando un microfono che internet che abbiamo preso e io ci sto poco attaccato a queste cose, è più lui che si diletta, capito? Ah, è una bella cosa che il ragazzo si avvicina a questa passione, per come la vedo io. L'importante è che faccia i compiti e poi il tempo che ha lo può anche dedicare in maniera sana a una passione così, dai. Niente, la tua voce non la conosco. Conosco la sua, la modulazione non è male, non è molto alta, non è molto amplificata, però sembra molto chiara. Adesso aumenta un pochettino, sono questi vecchi Turner degli anni 70, credo, dai. E adesso aumenta al massimo. No, così magari la portiamo un po' più giù, perché così stava un po' distorcendo. Prova un po', così va meglio? Così è ottima, Radio 5 è piena, pulita e con un pelo di amplificazione. Non è male, è proprio buona. Bello il microfono, eh? Li abbiamo recuperati stamattina, così da un annuncio. Siamo andati per caso e andiamo lì a vedere cosa... che c'è un frusaglio, c'è questo. E abbiamo portato a casa un po' di microfoni, adesso li sto provando per vedere se riusciamo a tirarne fuori almeno uno buono. No, è buono. Dai un attimo la portante muta. C'è il vento intorno? Esatto, c'ho le ventole perché qua fa caldo e mi sto rinfrescando con quelle ventole da computer messe in serie. Ah, cappa. No, è che sentivo un rumore, ho detto, bah, magari c'è un innesco, non me ne ero accorto, invece il microfono deve stare tirando dentro. No, va bene, è anche normale un rumore di ventilazione, tra l'altro. Poi insomma qua sta diventando una specie di laboratorio di quelli improvvisati, comunque niente, dai, volevo... Poi stamattina è arrivato anche l'altro MP5, che ho visto che col colto che usa lui va anche bene, poi magari stasera lo sentirete in frequenza. E adesso c'è questi Turner che sto cercando di salvarne qualcuno, dai. No, questo funziona bene, io non conosco la tua voce, non conosco la timbrica del Turner, sinceramente. Però come radio è ultima, io la trovo ultima. Che apparecchio è questo? Quello che sto usando è uno di quei vintage giapponesi della SBE, che si chiama SA2800, che non è bello da vedersi, però va bene come apparecchio. Totale 4 watt. No, credo che questo abbia di più, non vorrei sbagliare, in AM e in CCB, adesso non mi ricordo. No, vabbè, il segnale è più o meno quello di Riccardo su questo apparato, anzi, se mi fa un altro passaggio di 2 secondi muto, me lo guardo nell'altro apparato per vedere se è sempre quello. Lui normalmente usa questo, il Colt, adesso io sono più appassionato di questo SA perché secondo me va molto bene. Boh, niente, forse comunque l'antenna è quella. No, capo, il segnale è quello. 9.10 sulla mia stazione, io sono penalizzato per tirare l'antenna, adesso farò dei lavori e metterò l'antenna sul tetto dove deve stare. Il segnale è bello alto, 9.10, la radio è bella pulita. Insomma, fatto passi da gigante il tuo ragazzino, è poco tempo, diciamocelo. Perché sai cos'è? Che io quando ero ragazzo ero appassionato di queste cose, quindi ci è permessa una specie di ritorno alle origini e quindi è partito già da una base con qualche baracchino, poi l'antenna, vabbè, gli avevo fatto un dipolo all'inizio, poi abbiamo iniziato a farci prendere la mano perché abbiamo messo 2 antenne, qualche altro apparato in più, capito? E quindi stiamo sempre trafficando finché non troviamo la soluzione giusta, dai. Break. Cappa, registrato il break. Ho seguito la storia, l'ho seguita. C'è l'antenna, poi l'ha spostata, ho visto il segnale come era prima, ho visto il segnale come è cresciuto, insomma, tutta l'evoluzione. Bello che aveva detto, no, Riccardo? Dice, tu Riccardo, e beh, dimmi come mai radio eccetera, che radio c'hai, quante ne hai, ma quale vecchia, e lui dice, niente, non sa questa cosa, a un certo punto babbo ha tolto fuori una scatola di radio, c'erano tutte queste radio, quella vecchia, quella forse non funziona, lui sta dicendo questo, una scatola di radio ha tolto fuori adesso. Sì, perché io poi conservo un po' tutto, cioè il vizio di non buttare via niente, quindi si è ritrovato questo, come ho aperto un baule che avevo, è saltato fuori tutta questa roba che insomma non ricordavo neanche di avere poi. E niente, così abbiamo iniziato, dai, è meglio questo che quei videogiochi che ti fanno rincoglionire un pochettino, poi vediamo, quelle passioni già lo sai che con i ragazzi non si inizia da una cosa e poi non si sa dove si finisce. Cappa, però ci vogliono anche quei videogiochi, perché sono della sua era, cioè lui è nato digitale, ci vuole anche un po' quello. È bello che non sia attaccato al 100% a quello. Mio figlio varie volte l'ho dovuto attaccare, perché se gli lasci la mano, poi con gli amici giocano in tutti, si sentono mentre giocano, si chiamano al telefono, il messaggio, si guardano in tutto, quando è troppo è troppo, troppo è troppo. Invece Riccardo ha anche questa alternativa, insomma, questa passione per la radio, e fa piacere, anche io avevo 13 anni quando ho iniziato. Mandiamo avanti il break, così vediamo un attimo chi è, avanti il break. Capa Fabio, sono Giovanni. Comunque il microfono che sta provando l'amico, se non mi sbaglio, padre Riccardo, va benissimo. Da te ti volevo dire, ti fai vedere verso le 9 stasera, ti do quello Smith, l'ho trovato bellissimo, è anche montato a dire la verità. C'ha due Smith veramente, sono uno attaccato all'altro. Se te la senti verso le 9 fa un colpo di bassa. Cappa, io dovrei aver finito di cenare prima a quell'ora, stavo imprevisti. E allora ci riusciamo anche a vederci magari un attimo. Avanti parte di Riccardino, ricordami il tuo nome, perdonami. Attenzione, stazione Alfa U, Alfa 21. Niente Giovanni. Beh, non so cosa sia successo, almeno io lo copio. Vabbè, si farà avanti, aspetta un po', vedere si farà avanti. Io purtroppo sto terminando un quadro, quindi faccio questo ascolto e continuo a lavorare. Kappa, io ho le valvole in mano e oggi devo fare il primo test del prototipo. Sto controllando tutto prima della corrente, perché devo fare le valvole, sbaglio una volta e sbagliato per sempre. Beh, comunque ricordati, verso le 9 mi fai un colpo di bassa, dai. Cappa, ci sentiamo dopo allora, dai. E grazie per stamattina, Adesso vi do una bella polverata, come dico io, che ho la lavatrice, li metto la lavatrice e li facciamo girare, sempre belli, grazie. La lavatrice è sarebbe l'ideale, ma perché si possono mettere la lavatrice, dai, non so come, diciamo, se vogliono, diciamo, ripulire, in quale maniera ripulirli, io non intendo di discarto. C'è la lavatrice cosiddetta, ma è per i dischi, è un macchinario dove tu blocchi il disco, metti un liquido su alcune spazzole particolari, lo fai girare in un certo modo a mano, ci sono pure quelle che sono motorizzate, però io già non mi fido di quella a mano, bisogna stare attenti, attenti, figurati di quella motorizzata che fa girare un disco come cavolo vuole lei, non esiste. Finito di lavarlo, lo si estrae, gli si passa un panno particolare statico, perché se fosse antistatico non recupererebbe quello che deve recuperare, si passa il panno statico, lo si asciuga e il disco lavato suona meglio, più pulito, senza i soliti rumorini, magari con molti meno rumori, hai più dinamica, si lava il disco e si chiama lavatrice. È rientrato il padre Riccardo qua. È rientrato il padre di Riccardo, avanti stazione Alfa 21. Scusate, non vi ascoltavo più, non so cosa sia successo, sto modulando con un altro apparecchio. Già si vede. Padre Riccardo, il tuo nome mi è fuggito. Sta facendo prove, dai, ricollegando. Mi sentite, sì. Cappa, forse è chiaro. Ok, stavo provando questo microfono come mi stavate ascoltando poco fa e poi buono, vi ho sentito più, non so cosa sia successo. Qualche passo contatto. Comunque riprendete, dai. Cappa, Giovanni Bracco è in 2X, sta facendo una cosa, io lo stavo per seguire in 2X. Qui sull'apparato si fa analizzante il tessarito di due punti di Santiago, da Santiago 5 a Santiago 7 praticamente. E invece sul lato si è passato, che è quello che funziona meglio, da 9.10 a 9.15, perciò è cambiato qualcosa anche a livello di potenza tra questo e quello. Sempre che sia rimasta la stessa antenna, credo di sì. No, sì, l'antenna è la stessa, ho cambiato apparato, però questo credo che ci siano che dia 4 watt rispetto all'altro che era un qualcosa in più. No, qui mi ha fatto il contrario, però ti ripeto, non sono attendibile. Mi ha fatto il contrario, da 5 a 7 si è passato, cioè sembra che sia più forte con questo. Questo è l'apparato, è quello che usa Riccardo? Sì, questo è quello che usa Riccardo, che adesso stiamo usando con questo MQ5, l'antenna comunque è sempre la stessa. KK, arrivi benissimo, qua non è sole, con l'antenna sulla terrazza, sul terrazzino, arrivi benissimo, pulito, anche la radio è molto buona, piuttosto presente. Vedi, ad esempio, nell'altro, non so se è cambiato qualcosa, nell'altro apparato, vabbè, un po' avaro, ti sentivo, cioè, la radio sempre è ottima, però il Santiago era molto basso, arrivavi addirittura a 3, qua invece 9 qualcosa, 9.10. Potrei dire allora che questo apparato funziona meglio dell'altro, forse l'altro apparato ha qualche problemino, mi sto anche immaginando dopo, eh? È probabile, perché ogni tanto si... Sparisce la ricezione sul canale dove si usa questo tramo. Cosa, questo potrebbe essere anche un problemino del microfono che stai trovando, perché se lo scambio tra trasmissione e ricezione hai contatti sporchi, quando muovi la portata a volte sparisce proprio la ricezione. È una cosa classica, diciamo. Poi gli apparecchi che stiamo usando, molti hanno la loro età, i contatti si sporcano, si ossidano, capito? Sì, probabile che sia anche quello, perché questi, ripeto, li abbiamo presi, ma chissà da quanto tempo erano fermi, adesso li stiamo provando, stanno quasi gli anni 70, non so, con internet, e adesso stiamo cercando di capire qual è quello da tenere, quali sono gli altri che ci da fare a pezzi. Ma quanti ne avete preso? Sono 4 tarne. Allora, se uno vi avanza ve lo compro io, da? Fatene avanzare uno. Adesso vediamo un pochino, stiamo cercando di capire se ce ne sono, se ne è qualcuno da poter presentare. Vabbè, l'importante è che su 4 almeno 2 magari si riescono a chiudere bene, e allora sicuramente avrei fatto l'affare, anche perché immagino che insomma non abbia speso chissà quale cifra per avere questi 4 pezzi vecchi quando li compri, questi 4 bei pezzi quando sono tuoi. No, certo, però siccome li abbiamo talmente disgirati questi starter che non si trovavano, abbiamo girato e abbiamo poi ripiegato su uno ZG che secondo me non vogliono più, magari vanno bene, però esteticamente anche brutti da vedere, eccetera. Però quelli che usavo io quando ero ragazzo erano questi starter che andavano bene. Mi ricordo che avevo mio cugino vicino a casa che modulava, solo quando schiacciava la portante sentivo tan, un click meraviglioso e una radio perfetta. Eia, bellini forte. Erano altri tempi. Però la radio continua a avere quel fascino particolare, che poi si è appena appassionato un pelo in più della media e ti metti un pochino a fare disfare per trattamento, come dico io, magari è anche più bello, cioè riesci a avere una bella attrazione, ti dà soddisfazione, bella cosa. Così come è bellissimo recuperare le cose che magari erano ferme da anni e ti riesci a farle rivivere. No, ma infatti, poi capisci che i materiali di un tempo erano già diversi, erano fatti quasi con amore, adesso tutto è industrializzato, proprio così, tutto per il consumo. E quindi io non sono neanche tanto attirato da questo mondo, che rendono tutto così diverso. Preferisco gli apparati anche nel disegno, nel design, vedere un apparato vintage. Un apparato moderno che è sicuramente migliore nel funzionamento, ma non ti trasmette niente, sembra quasi qualcosa di amore. Cappa, come ti capisco, immaginati che io tratto vinili e in mano ho un amplificatore per puntini MC, per puntini MC, figurati. Io qui ho la bella e la bestia, la, non so quale sia la pelle e quale sia la pesce, però sono uno un apparatino microscopico tipo dimensioni 8x8x2, cioè praticamente un veicolare che è quasi palmare, che ha un microfono così piccolo che quando schiaccio la portante mi chiudo anche la capsula da quanto è piccolo. E l'altro è una Wagner del 1980, una stazione con tanto di orologio digitale per il tempo non affidata, clarifier centrale con rotellona, cioè c'è un abisso tra una e l'altra, però anche l'omologazione è importante, capisci a me? Sì, certo, quello non lo metto in dubbio, però diciamo che dicono il design era uno spettacolo, era arte, adesso sono. Anch'io un apparato piccolo, non so se l'hai conosciuto, un Tokai, che è tipo quello che mi hai descritto, proprio piccolissimo, è da barra mobile, sei canali, ma una meraviglia guardato così. Tasti in alluminio lucido. K, Riccardo me l'ha detto, ce l'avrete. Sì, quello con le lettere A, B, C, D. No, ha proprio la ruota dei canali, sei canali con illuminati di verde, uno spettacolo, mi ricordo, l'avevo comprato quando ero ragazzo, poi l'avevo venduto a un amico e poi quell'amico me l'ha di nuovo ridato dopo 30 anni. Non se l'ho così tutto per sicura. Lei a K, bellissimo. Che bellini, vedi, erano fatti con un modo di vedere le cose diverso. Adesso le auto hanno la carrozzeria in plastica e un filo d'alluminio, e inciampi per strada, e c'è una macchina parcheggiata a fianco, la tocchi col ginocchio, la tocchi col gomito, gli fai subito 500.000 euro l'anno, perché sono lamierini. Tutti dicono che è meglio così perché la macchina è più leggera e perciò con pochi cavalli riesci a muoverla meglio, consumi di meno, queste nuove linee sono più aerodinamiche. Cioè, se scivolavo da ragazzino e finivo con la testa sulla 127, tornavo a casa col pernocolo, la macchina non c'aveva niente, capisci a me? No, certo, ma non me lo dire perché siamo solo messo a io. Tu non vedi qua, ma stiamo parlando dal garage dove io ho a fianco la mia Caprice Station Wagon degli anni 80, che come chiude lo sportello è meglio non metterci la mano di mezzo per lanciare, ed è uno spettacolo, ancora oggi è una meraviglia solo a guardarla. È bellissima. Ho sentito ieri che Riccardo ha detto a Roberto, dice la Caprice l'hai vista? Detto, sì, la vedo tutti i giorni. Che signora macchina, io non sono andato a guardare che macchina è, però mi ricordo qualcosa di buono, verità. È la classica familiare della famiglia americana, in America omologata a 9 posti perché c'ha 3 file di sedili, qui per l'Italia non tollerano, è alta e rialzata, montata su un telaio a chassis come fuoristrada, uno spettacolo, bellissimo, tutto elettrico. Una meraviglia. Complimenti, deve essere una figata. Comunque mi informerò e in un modo o nell'altro magari vengo a vederla. Dici che tu la usi nel quotidiano, giusto? Sì, io la uso tutti i giorni. Io le macchine che ho le uso, non le tengo, sì, cerco di tenerle bene, però le uso tutti i giorni come se fossero macchine da lavoro. Sia questa che i pick-up che abbiamo, siamo un po' per lavoro, un po' per sparo, insomma ce le viviamo, è inutile tenerla così, che la luce me la guardo e poi... Capa, sono d'accordo con te. Niente, cioè le cose le tieni per usarle, per dargli il valore che devono usare. Io non sono molto collezionista, nel senso che sì, magari, cosa ne so, ho migliaia di nastri audio, ho centinaia di vinili, 5 o 6 palacchini, avrò una trentina di radio da collezione, però ognuna ha il suo perché, ognuna viene usata ogni tanto, ognuna ha una funzione particolare perché magari c'è una certa frequenza o perché sul nastro dà una certa cosa invece che un'altra, e perciò a giro ci passano tutte, GRC compresi, ogni GRC ha le proprie caratteristiche, sta bene in un certo impianto per lavorare in un certo modo, ma tutti devono essere usati. Le cose che non uso vuol dire che non mi servono. Se non è posto ce lo butto, se invece ha un valore o ha un proprio buon utilizzo, o chi regala o si vende, però cioè tenere le cose per guardarsi è due più no, fa piacere. No, ma poi dico, grande rispetto per tutte le passioni, io ammiro chi ha delle passioni, chi ha dei sogni da seguire, chi ha degli interessi, chi non li ha è un po' preoccupato. Per il resto qualsiasi cosa che uno colleziona non bisogna mai sottovalutarla. Se tu mi dici che collezioni francobolli e spendi, che ne so, 15.000 euro per un Bronchi rosa o per un altro francobollo importante, a me non fa nessun effetto. Capisco cosa vuol dire qualsiasi tipo di passione. È un ritorno che tu hai anche come ricordo affettivo di una vita passata, di tante cose. Poi con quello che è successo in questo periodo, secondo me, bisogna proprio cercare di vivere ogni momento per quello che è, altrimenti tutto è perso. Sì, dico, se lo vivi, se condividi con altre persone questa cosa, se è un pezzo della tua vita e ci lavori intorno, va bene. Però conosco persone che, cioè, cosa ne so, hanno 20 auto e 15 non le toccano, se hanno lì sotto il telo si dimenticano anche di averle per qualche mese, fino a quando l'amico gli dice: ah, Pasqua, ma tu non servi la 128 Sport? Sì, guarda, vabbè, se in fondo a Capannone, no, forse lo metto in campagna, e ciao. Ma quelle sono quelle dei piante strane, no? Come quelli che hanno le tasche prime di soldi e fanno la vita da capo. Ci sono quei paradossi che la vita ogni tanto ci ricorda, ma niente di particolare. Poi ognuno deve cercare di capire come va vissuta la vita, altrimenti è una trappola. È vero, ci rimane incastrato, eh? E ci rimane incastrato. È proprio vero. Sì, capisco comunque. Di qui a poco penso che mi vedrò con Roberto, non ci conosciamo, solo di radio. E perciò non so. E so che Roberto sa dove la fini. Perciò magari me lo faccio schifferare, se vince lui ti passa davanti ogni mattina, penso davanti al tuo lavoro. E niente, sono curioso anche perché mi piacciono le macchine. E questa Caprice verrà dal vivo, probabilmente è una cosa che mi interessa. Si è fatto in tanto serio dentro, c'è autoradio originale, com'è? No, c'è tutto originale, non, difficilmente, non tocco niente. Addirittura ci ho messo anche l'impianto CB con due baracchini vintage della Pierce Simpson. Tomcat 23 col frontalino in legno come ti riporta il biscotto, niente, insomma, c'è la tavola da surf sul portapacchi, ricorda proprio gli anni 80, quelli che secondo me erano tra i più belli, quelli che insomma che ho vissuto, gli anni 80 ci stava bene, abbiamo avuto un po' di serenità, dai. Cappa, chi non li ha vissuti negli anni 80 non capisce, non capisce proprio. Sì, pensa tu che il mio ex suocero aveva un maggiolone del 73, tutto originale, anche la vernice originale, color uovo, non colorito, senza segni di nessun tipo, il motore System Porsche, sempre rifatto quei ricambi originali, le passane originali lucide, senza botte e senza graffi, le gomme, quelle sue con le quali è nato, che avevano la divisina bianca, cioè tutto originale, e si era nascosto un'autoradio moderna sotto il cruscotto per sentire un po' di musica. E io gli avevo procurato la Piper dell'Autovox. Praticamente toglievi il posacenere e ci mettevi quella, perché era nata per il maggiolone proprio, per togliere il posacenere e metterci la radio onde medie. E perciò è venuto fuori questa cosina qua molto molto simpatica, per quello che ti ho chiesto se avevi l'autoradio, se avevi un autoradio vintage, eccetera. È un aspetto che io curo molto, che mi piace molto. Sì, non sono d'accordo con te. Non mi piace alterare le cose, anzi, bisogna spesso di portarle all'origine, cercare un po' di viverle per quello che erano. Se uno vuole rinfrescare un po' dei bei ricordi, altrimenti niente, ci fanno quegli incroci strani. E sono contrario anche con gli animali a fare così, con gli strani tipo un bassotto incrociato con un volpino, con le strane. Siamo un po' contrari adesso, per dire, per restare in tema, perché con la scusa che alleviamo anche altri cani, prima allevavamo anche i cavalli, adesso ormai i cavalli sono un po' passati di moda. Caffa, io ho avuto un cane di razza, un pincher puro, eccetera. E mi è andata bene il suo aspetto della salute, il suo aspetto del carattere, eccetera, anche perché eravamo un po' costretti dal fatto che eravamo sicuri che un cane un po' più grande, anche se l'appartamento è grande, abbiamo molte terrazze, comunque avrebbe sofferto. Però gli animali sono proprio contrario alla razza pura, agli incroci organizzati, tutte queste cose qua. Se tu noti il primo passatino che ti passa per le mani, parli col vicino di casa, compie 18-19 anni, salute, non ha mai preso un antibiotico, nota un po' più. Già questo deve far riflettere, capito? Cioè la natura lo sa più di noi. Vabbè, certo, che tutte le cose un po' alterate, cosa ci trascinano dietro delle tare, delle limitazioni, quelle normali. La natura nel tempo cerca di adattare, di forgiare qualsiasi cosa in modo che possa sopravvivere al tempo, altrimenti tutti i guai, tutti i problemi si trascina dietro. Poi infatti quando l'uomo ci mette la mano diventa tutto un po' più complicato. Tra l'altro credo che il pasticcio nel quale siamo incappati ultimamente, con questa sorta di virusino, con il dito uscito, non lo so, i più romantici dicono che è un avvertimento alla natura, guarda il mondo cosa ci vuole dire, no? Guarda l'universo cosa ci vuole dire. Quelli un attimino più attaccati alla religione dicono che è un messaggio di Dio. Io penso che l'uomo stia facendo troppi pasticci, ci si metta nei guai proprio con le proprie mani, e che la fine dell'uomo sarà per colpa dell'uomo, capito? No, ma io credo che si è sempre parlato per quanto riguarda questa storia dello spillover, credo che sia proprio quello poi alla fine, l'uomo che sconfina dove non deve sconfinare, quindi il passaggio di alcune problematiche che comunque se restano a livello animale sono contenute, se invece fanno il salto di qualità, quindi il passaggio animale-uomo, poi il resto diventa un pochettino più complicato e se ne paga le conseguenze, perché l'uomo non ha ancora capito che inizialmente la necessità di mangiare carne poteva essere tollerata, non conoscendo le tecniche dell'agricoltura e non avendo la capacità di potersi procurare cibo diversamente. Ma adesso abbiamo delle tecnologie che ci permettono di ottenere cibo dalla terra in maniera molto più semplice, meno complicato, meno dannoso, e invece l'uomo continua, perché è uno degli animali, forse l'unico animale più pericoloso che esiste sulla terra, a creare problemi a se stesso e agli altri. Sì, Kappa. Hai mai sentito una notizia tipo, che so, che una comunità di tigri ha inquinato un lago, o che, per dire, degli elefanti hanno distrutto un ecosistema? Ma no, certo, ma è l'uomo alla base di tutto, che purtroppo tende a voler essere sempre al centro dell'universo, non ha capito che ne fa parte, quindi deve cercare di rispettare tutto il resto, dall'animale più piccolo che esiste sulla terra alle piante e tutto ciò che lo circonda. Invece l'uomo ha questa cattiveria, questa ingordigia di doversi accaparrare tutto quello che secondo lui gli appartiene, e poi è chiaro che ne paghiamo le conseguenze, ma ne paghiamo le conseguenze poi anche noi, che non c'entriamo nulla poi alla fine, perché noi siamo la gente comune, anche un ruolo marginale, poi sono quelli che veramente hanno il potere di rovinare la vita, l'esistenza anche agli altri. Sì, capa, però te non si capisce cosa, perché diciamocela tutta, una volta che sei miliardario, una volta che hai oltre un tot, che hai 100 volte, 1000 volte quello che ha un operaio, per intenderci, e adesso cosa fai? Cioè, quali grandi cose devi fare? Di cosa ti devi saziare? Qual è la tua fame? Qual è il tuo problema dentro la tua testa arrivati a questo punto? guarda che poi alla fine muori, no? Insomma non ci fa niente. Ma purtroppo lo sai cosa succede? Che si fa parte, si entra dentro un meccanismo che è vorticoso, praticamente non riesce ad uscirne. Quindi cosa succede? Che perdi l'autocontrollo di se stesso e di quello che tu vuoi ottenere. Per cui ne diventi, a un certo punto diventi anche una vittima, inconsapevole, senza rendertene conto. E continui così finché non ti succede qualcosa veramente che ti faccia riflettere, allora lì potresti forse cambiare strada, altrimenti prosegui, è come un'auto in corsa che ti crea, che ti dà ebbrezza l'alta velocità, sì, che non vai a schiantarti contro un muro, non te ne rendi conto. Certo che per essere quelli più intelligenti, per essere quelli dotati di anima, per essere quelli dotati di gusto dell'arte, di critica per l'estetica, per essere quelli che riescono a giocare facendo in maniera tale che la fisica e la chimica abbiano un vantaggio, per essere quelli che scalano le montagne e che vanno sott'acqua per non so quanti metri e negli oceani, eccetera, e che vanno nello spazio, nella luna, che vogliono andare. Certo che siamo proprio messi bene, aspettaci bene cosa ci abbiamo dentro, per piantarci poi alla fine con questa bella macchina su un palo, capito? Perché dobbiamo correre. Ma infatti questi sono gli estremismi di una civiltà che ormai, insomma, viaggia ma non si capisce neanche dove vuole arrivare. Stiamo viaggiando cercando di alimentare soltanto e di soddisfare le esigenze di pochi. Poi una regola che credo che sia insopportabile sia il fatto che per far star bene uno devono soffrirne 100. Questa è già una regola sballata. Sarebbe più logico il contrario. Purtroppo più andiamo avanti più si allarga questa benedetta furtice, così come si suol dire. Il ceto medio non c'è più, i poveri sono aumentati, lascia perdere questo periodo, i ricchi sono sempre più ricchi e sempre di meno. A me però ha fatto vedere una cosa, mi ha un attimo impressionato, dei servizi che ho visto in TV ultimamente. Praticamente ho visto che a far la fila per prendere una busta di spesa, non mi ricordo in quale stato dell'America, c'erano delle persone a piedi, c'erano delle persone con delle macchinette e c'erano anche delle persone con dei SUV, capito? Una sorta di mappa per uniformare, una cosa automatica che ha fatto questo virus. Perché poi alla fine torniamo a quel paradosso che ci ricordava Totò, la ribella di Totò, che poi alla fine quando dobbiamo morire, che tu hai miliardi o non ne hai, alla fine si uguaglia a tutto, si pareggia a tutto e qui la ribella diventa uguale a tutti. Però, ripeto, secondo me dobbiamo puntare sulla qualità della vita, non inutile stare lì a pensare cosa possiede quello, cosa quello, dove è arrivato, dove non è arrivato. Ognuno deve vivere la propria vita come se stesse progettando un abito su misura. È inutile stare lì a fare paragoni e a sperare di poter diventare chissà chi. No, e poi tra l'altro chissà chi uno diventa dentro. Perdonami. Lo diventa dentro, non fuori. L'unico intervento buono che puoi fare è arricchirti dentro, arricchirti di sentimenti, arricchirti di valori, perché io ho visto che i soldi vanno e vengono. Da questo ti posso dire che non mi spavento se non ho soldi in tasca, non mi spavento se ne ho tanti. Non sono né orgoglioso, né intimorito, né da una cosa né dall'altra, capito? Sono solo soldi, cioè sono degli oggetti. Poi le cose che ti rimangono veramente sono quelle che c'è dentro. Buonasera. Il problema è sempre che valore dai alle cose. Quindi se dai un valore giusto, equilibrato, lo vivi in maniera giusta. Se questo non lo fai, diventi vittima di quello che ti circonda, quello che è normale. Ma poi alla fine abbiamo a che fare con una cosa che spesso dimentichiamo, il tempo. Ma tu leva i primi anni di vita dove sei una specie, sei incosciente, che sono i primi 15-20 anni. Leva gli ultimi 20 che sei mezzo deficiente, che non sai neanche dove ti trovi. Quindi alla fine te ne restano pochi. Certo. ce ne sono pochi sì. Mi è sembrato aver sentito Luca che dà valore alle cose sballato, tipo che è convinto che un 3.009 abbia valore quando non vale neanche 20 euro. Avanti Luca con 3.009, dai. So c'ha valore, glielo diamo il valore, te lo compri 500? Subito, guarda, facciamo un mutuo, io e il padre di Casino che ruota con noi. Ci stai, lo facciamo a mezza e mezza, i giorni dispari lo usi tu e i giorni pari lo uso io. Me? Capo, dicevo a te, per non farti spendere troppi soldi, lì, ce la prendiamo metà e metà, i giorni dispari tu e i giorni pari io. Questa è come quella storia di quando lavoravo con i cavalli, che ci faceva il paragone, che un cavallo non se lo compravano manco i due, figuriamoci, un apparecchio che poi diventa una cosa personale, il cavallo ancora un po' di turino, però con gli apparecchi di solito c'è una gelosia che a volte è anche difficile contare con la mano. Scusate, oggi la gola vuole dire la sua, io cerco di dirla, però vuole continuare a modulare, deve essere diritto c'è il microfono e il baracchino. Per esempio, questo baracchino qua, che si chiama in realtà Tornado 34S, io 400 euro forse non lo darei Luca, è inutile che tu spendi 4 spiccioli per un 3.009 che dovrebbe essere superiore, è meglio questo, capito? È meglio questo. Mica ho detto niente, ci mancherebbe, ma so che quello non c'ha i canali che vuoi, io sì, cioè i canali che voglio, se ne voglio 40 va bene, se non ne voglio 240. Sei sempre più esagerato, tanto alla fine usiamo sempre 10. Vabbè, ma se decidiamo di spostarci di canale, tu lo puoi fare, no? Capa che lo posso fare, basta che mi dici la frequenza e andiamo dove vuoi. È vero. Invece se c'è un baracchino, che questo alla fine è un baracchino omologato, ma a me piace come tipo di apparecchio, ecco, come è fatto, dai, questo affrontare argento, le manopoline argentate, tutto qua. Poi per quello che l'ho pagato alla fine, questo nuovo costa 200, anche 250 secondo dove lo compri. Capa, stavo scherzando, lo so benissimo, lo aspettavo anch'io che arrivasse il tuo baracchino, perché ti ho visto trepidante l'altra notte, era a Bologna, mi ricordo, stavo aspettando che dicessi, oh raga, mi è arrivato l'apparato, come esco? E poi tra l'altro quel tipo d'apparato è praticamente il mio apparato preferito. Stavo prendendo in giro perché parlavamo del valore delle cose, mi sei venuto in mente col tuo baracchino, ti ho messo in mezzo così male, capito, di striscio. Ah, così è, andava. Sì, perché era sempre fermo lì. Infatti guarda qua, era in transito e poi stamattina l'ho aperto in consegna e adesso mi è uscito consegnato. Vabbè, diciamo che il tipo mi ha detto che il baracchino c'è un grafico, a me mi dà fastidio queste cose, ma non vendo di più, perché se io vendo una cosa e ti scrivo che non ha un grafio, non si vedono neanche, se tu lo vedi tutto graffiato, vabbè, ormai è qua, la sto lì a fare studio, pazienza. La prossima volta, quando se dovrò comprare una cosa usata, ci penso non una volta, 20 volte. Ho detto, cioè per spendere un tot di soldi, preferisco spenderne 10-20 euro in più, però sono sicuro che non è graffiato, e sono fatto così. Aspetta un attimino, allora. Invece perché non lo telefoni il tipo e glielo dici? È arrivato tutto graffiato qua. Il fatto che all'interno sia tutto a posto. Sì, a posto, all'interno è a posto, non è stato mai aperto, è andata lì ormai, cosa sto lì, io non ho più gana di stare addosso a questo qua, lui mi ha detto così, che non era graffiato, ormai lo tengo così, poi farò come hanno detto, un'incipaccata come si dice a Sassari e buonanotte. Là. Sì, infatti, però gliel'avrei detto, perché non è giusto, se lui ti ha detto che graffi non ce n'era, no? Ti è arrivato tutto graffiato qua, quell'apparecchio. Fabio, come esce col microfono normale? Ti piace, sì? Guarda, quel modulatore che tu stai usando è il modulatore che sto usando io. E per dire come la penso che sia praticamente il miglior modulatore che c'è in giro, compreso gli HF, cioè come modulatore esce meglio di un HF, che l'HF non è fatto per girare su queste bande, è ai suoi limiti proprio di modulazione. Poi c'è chi si mette il microfono, chi impasta, chi tira, chi molla. C'ha in mano il barattino che è modulato di migliore, secondo me. E riesci benissimo pure col microfono dinamico, stupido e via dicendo. Così come potrei uscire bene praticamente con qualsiasi microfono, perché fino adesso in vita mia non ho mai visto un microfono che non si adatti al tuo modulatore, figurati. Guarda, ne ho visto quattro, ho fatto un po' di prove stamattina. Rilanciamo a parte di Riccardino, avanti. Ok, dai, mi sono dedicato anche a salutarti, ciao Luca e ciao Natalino, per ascoltarti. Arrivi benissimo, adesso ultimamente nell'ultimo passaggio si è uscito un po' a tratti, non so perché, forse hai toccato qualcosa. Questo microfono dicono che ogni tanto esco a tratti. Mi sa che adesso mi alzo, lo apro e vedo un po' di spruzzarvi il prodotto, eh? Perché ogni tanto non esce il radio. Confermatemi se questo passaggio l'ho fatto adesso, sono mancato o no. No, sei uscito benissimo, ti ho ascoltato perfetto. Vabbè, niente, è inutile lamentarci quando prendiamo roba usata, fa parte dei rischi ci sono, quindi bisogna assumersene una certa dose. Sì, ho capito, ma se facciamo un esempio, tu ti vuoi comprare il mio baracchino, ok? Ti piace, no? Ti mando le foto, lo vedi. Sarai anche il primo a dirmi, ma ha graffi? Io dico no, non ne ha. Io te lo do, vabbè, una cosa che magari è diversa, perché magari ci vediamo di persona, lo vedi che il baracchino è così. Però se te lo spedisco e ti arriva che lo vedi tutto graffiato, cosa fai? Cioè, lui mi ha fatto dare foto per far sì che non si vedano i graffi, infatti non si vedono, si vede nuovo, guarda, l'ho mandata, chi l'ho mandata? Non mi ricordo, forse a Natalia, te l'ho mandata la foto quando, prima di arrivare, Natalia è sparita. Io non lo sento Natalia, figurati. Natalia. Ma considera comunque una cosa, che le valutazioni che uno fa sono sempre soggettive, per lui potrebbe essere in ottime condizioni, invece per te no. Vabbè, ma se mi dici tu che non ho un graffio, ci sta, vabbè, va. Ormai ecco la pazienza, quando sarà, allora, vedrò cosa fare. Luca, molto semplice, ma cosa c'è, frontalino un po' graffiato? No, il coperchio è un po' la cornice là, del baracchino. No, se siamo in coperchi la soluzione è rapida e efficace, lo puoi avere, è brillante e bello, cioè non hai speso quella cifra là per averlo nuovo, però contemporaneamente vedi che tutta l'elettronica è proprio in ordine. Ne è valso la pena comunque, ne è valso la pena. Ti ripeto, il mio, per le condizioni in cui è, per come appare, anche se magari sono da riverniciare un po' i coperchi o il graffietto ce l'ha, per tutta la funzionalità che ha, per come esce di radio, per la potenza che può erogare, che potrebbe erogare, meglio dire, per come riceve, per come c'è il RF gain, per come posso cambiare minibanda, il mio non lo venderei per quella cifra, neanche per scherzo. Ognuno di noi c'ha, come si dice, la pensa diversamente, dai, cosa, io sono fatto così, avevo deciso di comprarlo perché la radio non c'aveva un graffio, va bene, dai, ormai è qua, pazienza, cerco di rimediare, dai, ormai non posso tornare indietro, la sto lì adesso a farglielo vedere, è tutta piena di graffi, vabbè, ormai è noghi, cosa, non interessa, avanti Alfa. Ok, vabbè, ci capisco un po', anch'io sto sempre a guardare lì le cose, però vederle sempre lucide e perfette alla fine non è neanche più possibile se le usi, se le sfrutti, è normale, un uso comporta anche la le cose che usiamo tutti i giorni, anche noi piano piano stiamo cercando di mantenerci in forma, ma poi alla fine quando scavalchi una certa età inizi a sentire il peso degli anni, poi ti rendi conto che non sei più quello di prima, quando cadi non cadi più in maniera così atletica, cadi un po' pesantemente e via dicendo. Senti, non cominciamo questo argomento, che c'ho ancora 19 anni, senza ombra di dubbio Alfa, lo so. Guarda, io ti dico una cosa, c'ho un telefono, ci tengo troppo alle cose, e c'ha, fai un anno, io te lo faccio vedere, non c'ha un graffio. Sì, ma lo metto in dubbio, lo tieni bene, ci tieni, però poi alla fine l'usura è quella che è in tutte le cose, non ci possiamo far niente. ci possiamo opporre quello che vuoi, ma è una questione poi personale, i punti di vista poi alla fine. Forse noi siamo un pochettino più rustici alle cose, le trattiamo per quello che servono e quindi non ci facciamo più caso, perché altrimenti anche mio figlio come usa le cose, graffio qua, graffio là, perché sta sempre smanettando, cambiando, facendo, cosa gli faccio? Purtroppo lo devo tollerare anche così. Luca! Vabbè, sì, dimmi. Ben inteso che la penso come te, cioè non la devono fare a me una cosa così che mi arriva graffiato, però mi metto un attimo l'anima in pace, cerco di correre, ripari, capito? Io la pensavo così. Ho visto che ci sono in vendita per il nostro apparato, perché hai l'apparato Guaralmi in pratica, ci sono in vendita delle mascherine furiose, quelle retroilluminate, quelle cromate, quelle marroncine, le ho viste viola, gialle, cioè poi alla fine sembra un pochino. Dici, ma sì, l'apparecchio è perfetto dentro, adesso me lo faccio perfetto anche fuori, ce lo puoi fare con tranquillità. E magari quella cifra l'avete spesa anche se non ci fossero stati grassi, capito? Magari adesso si è preso così un attimo per il momento, perché ti è appena successo, ma sono sicuro che tra un pochino che inizi a usarla, ti affezioni e ti dicono tutti, ma che bella radio che c'hai, e ascolti tutti anche in profondo, non prendi conti, eccetera, cioè l'apparecchio diventa tuo e diventa un'altra cosa, eh? Lo so, vabbè. Non devo fare una malattia, purtroppo, è amata così, pazienza, ci otteniamo, già è bellino così lo stesso. Adesso uno di questi giorni, avvisatevi quando non esco in radio, perché stamattina che stavo facendo questo problema, comunque uno di questi giorni li cambio il led, che non mi piace, dai, preferisco quello bianco, almeno è più carino e tutto, dai. Questo qua c'è adesso, è luce fredda. Ne ho capito, ma com'è, bianco? Che cosa? No, adesso è giallina la luce. Quella originale? Si conferma, non mi piatti. Io l'ho cambiata solo perché si era crepata la lampadina, tra l'altro mi stava anche dando problemi sull'alimentazione del GRL, perché sto collegato lì. Ci ho messo quello che ho trovato, cioè un LED blu. Adesso è blu, tutto figo, anche il microfono è tutto blu, si illumina tutto blu, cioè dice, mi sto anche stancando, cioè quasi quasi se trovo la cosa di bianco, invece a me o di giallo, blu, forse più rilassante. È blu, è vero, sì, perché c'ha i numeri rossi, mi hanno mandato a tuo figlio Alfa, guarda, c'è la tua, ma penso che la conosci comunque, dai, come radio. Sì, che la conosco, ma esiste già da parecchi anni. Non è una radio, insomma, che non rara, particolare per come è fatta, però insomma già si trovano anche nostri commenti. Sì, infatti la domanda adesso costa 185 più 20, 205 euro costa nuova, e questa qua l'ho pagata a 125. Beh, insomma, dai, c'è un po' di differenza, c'è, ma forse se ti piaceva averla nuova potevi prenderla nuova, non ci pensare più a me. Scocciature, poi per il resto insomma l'importante è l'uso, che vada bene, insomma, che come diceva Fabio, che si sentano bene tutti, poi quella è la cosa più importante, il resto tanto sta al riparo, tutto sommato non credo che possa continuare a prendere altri maltrattamenti, insomma deve prendere cura, quindi la rimetti a posto, se la rimetti a posto da pregare, da fare. Sì, in effetti, avanti, che vuoi entrare? Se stavo parlando mi metto a fischiare, vabbè. Avanti, Natalio, ci sei? Già ci sono, Luca. Ho chiamato poco fa, non mi ha risposto. Guarda, se c'è Fabio, dice, non ti sente. Manco io lo sento a Fabio, Assurdo. Ma arriva benissimo qua. Doveva arrivare a 9:20, però già arriva. Allucinante, vabbè, magari forse la posizione anche. Lo sai che c'ho un metro di tubo io? Lo so, Natalio. Anche tu hai una antennina da nuda, tu c'hai una 5 ottave sul tetto, anche se l'antenna è bassa. Io non lo ricevo a Fabio, la verità tecnica. E Alfa 21 lo senti? Alfa 21 lo senti? Sì, io lo sento. L'ha sempre collegato anche Enrico. No, non è il padre, capito? Lo so che è il padre, ma già lo sento per capire. Già lo sento a lui. Beh, l'apparato è lo stesso, l'antenna è uguale, la posizione. trasmissione idem, quindi se ci sentiva prima credo che continui a sentirci senza problemi, come noi lo facciamo con lui, no? Arriva, è sempre arrivato bene qua. Guardi, è che ho l'antenna bassa io qua. Avrò un metro di tubo che esce dal tetto, poi sono in zona bassa. Sono proprio a livello terra-terra. Ma guarda che la radio è ottima, magari potresti arrivare basso di segnale, ma il segnale secondo me, per me ha sempre contato poco, è la radio quella che conta, sta arrivando bene di radio. Sono col microfono normale? No, però è una bella radio, squillante, cioè è forte, si sente, quella ti aiuta molto. Va. Mi hanno detto che sono pazzo di radio. No, sei abbastanza comprensibile, chiaro, una radio corposa, a volte sembra anche amplificata un po'. Mi metto l'amplificato, che questo è un omologato, e no, più di tanto non amplifica, è tutta chiusa, deve essere. Io non la apro perché la voglio tenere omologata, capito? Ho capito, comunque ti ascolto bene, senza problemi. Avanti Luca. Cioè. Tu Garie. Beh, riprendo io, dai. Va bene, io mi allontano adesso un attimino che c'ho sempre roba da fare qua che siamo in campagna. Non si finisce mai. Natalino, ci sentiamo alla prossima. Saluto anche Luca e Fabio che non ho più sentito. Eccomi qua. Ciao Sergio, dai. Ben sentito anche a te. Lo so, in campagna c'è sempre da fare, non si finisce mai. Ci sentiamo alle prossime, dai, piacere di averti sentito. Ok, ho visto che è entrato anche Fabio, ho sentito. Sì, qua purtroppo non bisogna stare con le braccia conserte perché c'è sempre roba da fare, quindi mi devo muovere e cercare di sistemare le cose perché altrimenti nessuno me le fa. E alla prossima, dai, quando appena possibile rientrerò di nuovo. Ciao Fabio, ciao Natalino e a Luca se si fa sentire ancora. Ciao, è stato un piacere. Niente, ci sentiremo sicuramente. Grazie, sì. Perché se tu sei lì intorno ti capiterà di stare davanti alla stazione. Se mi posso salutare anche Natalino, visto che non lo sento, guarda, mi fai un favore, perché tanto Luca non c'è, perciò non potremo parlare. Allora, aspetta un attimo che... un attimino, Allora, Natalino... vabbè, forse Natalino mi ha detto che ti sentiva. Natalino... Fabio non ti sente, comunque ti saluta. Fabio, senz'altro ci rincontriamo e sicuramente anche verticale. Ok, volentieri, dai. Ci vediamo alle prossime, allora. Natalino, se mi senti, ti saluto, perché io non ti sento, purtroppo, vedo famiglia, però... fino adesso si è voluto fare, più avanti sentiremo bene sicuramente. Scusatelo, Bobo si è allontanato, anch'io devo finirmi una cosa di scienza e poi entro in 27. Ciao comunque Fabio. Almeno mi saluti con Quomane. Ciao Riccardo. Sì, ok, ti hanno sovramodulato, non so se era una portata o qualcuno che voleva entrare. Avanti, sì, comunque ci sentiamo tra una mezz'oretta. Ciao Riccardino, Natalino sono. Vai, fatti quello che devi fare, poi rientra, dai, già sono in ascolto io. Luca non riprende più, non lo so, chissà cosa gli è successo. Ok, come ho detto, ciao a tutti, ci sentiamo fra una mezz'oretta. Ciao Fabio, ciao Natalino e gli altri eventuali in ascolto e quelli che non hanno nominato Luca. E ci sentiamo dopo, ciao, lo chiudo. Fabio, se mi ascolti a me ti saluto, perché io non ti sento purtroppo. Vabbè, spariti siete. Sto uscendo, sì? Azzardo. Segnale 5 sta arrivando a tu. Un bel... No, già c'è a tu. Segnale 5, azzardo. Che perché, No, ho finito, sì, dai. No, sto dicendo Antonio, ma Natalino, mi sono spostata a levare la roba dallo stendito io. Ehi, andava, la chiamava Drumita e... lì piace dormire a mamma, allora me lo devo fare io le cose. Ma me le faccio io, non è che ci mancherebbe. Bene, bene, no, mi stavo anche controllando le mail di eBay. Ah, che ce l'ha anche in culo. Ehi, vabbè, già si è dato un gruppo, da pazienza, no. Non mi interessa. so io per lui, la prossima volta so chi è, non gli prendo più, non, a parte che non prendo più niente a seconda mano, non mi interessa, ma non che lo vedo io, lo giro, lo vedo, lo faccio, se è nuovo lo prendo, altrimenti non ne prendo. Beh, così mezzugai essere. Ripugiato di sì, sì. Ah, alla volo si è andato. Ah, ho capito. Allora io, perché io stavo dormendo, tanto ecco perché il tempo è passato. Ah, è meglio che stai tutto il giorno, cosa ne sto facendo, eh. È meglio comunque, hai ragione, perché se riposi il pomeriggio poi è un casino perché non riesci a dormire la notte, confermo. Ma a me prendo subito il sonno e poi mi sveglio all'una, alle due, alle tre, e a tutti i due. Tanto ma questo apparecchio c'ha le connessioni come il typhoon, no? Uguali, senza, perché non le ho cambiate io, eh. Ah, ho capito, infatti c'è tu in chiaro lì, prima di smontare, attaccato al saldatore, c'è tu, perché non provare? Infatti ho provato, visto che non è nato importante, ce l'ho portato, ho modulato, visto che funziona. Quindi bussi, eh. Eia. Ma tu stai usando quell'antenna che hai detto? È forte la radio, cavolo, c'è bene. Ma c'è bene a tu. Segnale 5 tu sei. Io sicuramente la te sarò di più. Vedi. E gai, vediamo un po' se la fa 21, ci sei? No, è andato via. Capito. Metto io in riserva, lo senti, Natale? Via che già lo sento. Ciao, azzardo. Cosa tu, scusa? Sì, sì, 5 a picchi positivi, eh. E si conferma. Si conferma. No, non ci gioca nulla. Oh, non ne ho voglia proprio, va. Manco se mi fai, non odoro. No, già mi ho aumentato la gli ho spostato la spinettina, non ti dici già, ma la jumper. È una cazzata, ma se lo posso più. Infatti lo stavo cercando, non lo vedevo, boh, dov'è? Praticamente rimane dietro il frontalino, là sotto. Il jumper. Per i canali, Andrew. Sì. Sì, ma te l'hai fatto a Marta. Dato parlantino, sì. Allora, c'era Fabrizio l'altro giorno che stava dicendo che stava riparando uno uguale identico a quello che c'è tu. Solo che gli bruciava gli autoparlanti. Ma non è che lo piace, se li brucia te lo bruciano. Va bene, tu, lascia vedere. Io non è che l'altro giorno l'ho vista così. Ma lascia vedere. Non sembra manco rotta, no. Sì, ce l'ho, mi l'ho passato nel cassetto. Canduguerese. Ma chi? Pompone azzardo? Ah, io ordino questa antenna, io, te la ordino io. Ah, ho capito. Ah, giugavitte. So che fai fare una game master. Vabbè. Ah, giugavitte. Ah, io fermo sto lavaggio alla taschera, tu così lo proviamo, sto benedetto telefono, dai. Guarda, se usa più l'avevo fatta io con il GRC, se usa più. È vero, no, sto scherzando, dai. Magari, no. Stavo scherzando, poi vabbè, prima mi farei sapere, cioè mi farei vedere questa cosa che c'è tu e tutte le procedure. No, di questa lavatrice. Ma ne faccio centrifughe? Lo so, ma la facevo comprare Lucca, c'era su internet, ha preso barato, ha sacco barato. Lo so. Ho capito, avanti Natale. E poi, vabbè, stavo cercando questo dive, però con... non ce n'è, non vi ne... Poi usati, magari ingraffiato, no, li biglio. Mo se l'hai pagato tanto. 100? E quale modello è? Ma fa V2HF. Lo sto guardando adesso, aspetta. 102 euro costa. 111 euro viene. L'SX1000. Però non c'ha non ha le fettine tanto come il 200SX. E questo qua c'è i tastini, dai, questo qua c'è le leve per commutare, dai. Eia. Sì, lo sto guardando adesso, sì, SX1000, dalla Telecom tuo, quella stessa a casa, no? Ma c'ha due ingressi, ma come